Radio 24 Reportage. Francesco, il santo ristoratore, di Dario Ceccarelli. Tanti auguri, l'opera San Francesco compie 50 anni e li porta benissimo. Nata a Milano nel convento di Viale Piave dall'incontro di Fra Cecilio e l'industriale Emilio Grignani, l'opera è un importante punto di riferimento per poveri ed emarginati della città, molti immigrati ma anche famiglie italiane colpite dalla crisi. Una mano all'uomo ogni giorno, come spiega padre Maurizio Annoni. Beh, allora una mano all'uomo innanzitutto è un aiuto che diamo alle persone che attraversano un momento di difficoltà per varie ragioni, e la mano è rappresentata da una erogazione di servizi che rispondono ai bisogni primari della persona, quale appunto il bisogno di cibo, ecco appunto giustificata la presenza della mensa, della cucina di Opera San Francesco, il bisogno di igiene personale, quindi il bisogno di lavarsi, di vestirsi, ecco che si giustifica il servizio di docce e di guardaroba, quindi di un cambio di vestiti, e il bisogno quando c'è una malattia, il bisogno quindi di essere curato, ecco allora il servizio dell'ambulatorio medico. Inoltre anche un bisogno, diciamo, di un livello superiore, quindi insomma chi ha bisogno, chi cerca consulenze, chi cerca casa, chi cerca lavoro, e attraverso anche il servizio dell'area sociale siamo in grado di rispondere, anche se nei limiti logicamente di questo servizio, a quelle che possono essere delle necessità appunto dei poveri. Ogni giorno 2000 pasti, 40 visite mediche, docce e guardaroba. L'opera si è sviluppata grazie anche al lavoro di circa 400 volontari. Sentiamole allora questi volontari. Il primo è molto giovane. Mi chiamo Alessandro Ferrari, io faccio l'educatore in una parrocchia della provincia di Milano. Qui all'Opera San Francesco seguo il martedì mattina la parte del guardaroba e docce, e più precisamente io consegno i kit a chi viene a fare la doccia o chi fa la barba o lava i piedi. È sconvolgente vedere che viene qualcuno qui per lavarsi i piedi, perciò hanno bisogno delle calze, dell'asciugamano, di tutto insomma. Oltre a camminare tantissimo staranno anche in posti senza avere l'acqua, avere sapone, o comunque vedere che hanno bisogno di calze, insomma di tutto quello che noi pensiamo possa essere una cosa normale, per loro non lo è. Probabilmente ormai li conosci quasi tutti. Beh, sicuramente, dato che ho il turno fisso dal martedì da ormai quasi 2 anni, li vedo spesso, quelli del martedì sono ormai quelli che conosco, ogni tanto c'è qualcuno nuovo, però solitamente ormai si salutano anche un po' come degli amici. E adesso abbiamo il capomensa, un ex imprenditore. Lei qui è il boss delle cucine, vero? No, non delle cucine, della sala, del refettorio, non sono il boss. Faccio il referente 2 giorni alla settimana, martedì e giovedì. Governo un po' qui la sala, ho un gruppo di volontari, 6 o 7, a seconda delle presenze. Ci adoperiamo per dar da mangiare a questa povera gente. Quanti pasti ogni giorno? Mediamente sono sui 1200 pasti a mezzogiorno e 1000 la sera. Oggi c'è pasta in bianco, cotoletta alla milanese con il contorno di carote e un frutto, 2 panini. Il menù varia di giorno in giorno e nell'ambito della giornata, dalla sera al mattino. È volontario da quanto? Da 7 anni. Nella vita cosa fa? Nella vita ho lavorato nell'azienda di famiglia, 7 anni fa ho deciso di dedicarmi qui, lei può immaginare con che attriti e con che, perché con i parenti ho dovuto lottare per ottenere questi risultati qui, cioè per tirarmi via, ritagliarmi un giorno, poi 2, e adesso ho smesso definitivamente l'azienda, avanti con mio cugino e io sono fuori e ben contento. Sì. Ecco lo chef allora, da 15 anni sui fornelli. Buonanotte Francesco, io mi trovo benissimo, il mio ruolo è quello di preparare da mangiare per gli utenti, per i nostri ospiti, nel servizio del mezzogiorno. Qual è la difficoltà di servire così tante persone? Che sono tanti, effettivamente ci vuole tanto tempo nella preparazione, anche se il menù è semplice, che vada un po' bene a tutte le persone, perché abbiamo differenti razze, per cui musulmani che non mangiano maiale, tutte cose semplici che possono riconoscere tutti quanti. Uno so, la pasta al pomodoro è un piatto un po' conosciuto, la cotoletta, l'arrosto, l'hamburger, comunque sono piatti semplici. Ogni tanto fate qualcosa di speciale? Sì, quando ce lo portano in donazione, sì, tipo oggi mi hanno portato delle chele di granchio fritte che faremo dopodomani. Tanti stranieri, anche italiani, tra i frequentatori. Sentiamo una badante ucraina che viene qui da circa 3 settimane in attesa di trovare un lavoro stabile. Signora, qui si trova bene? Sì, grazie. Buonissimo. Sì, adesso stavo cercando il lavoro e con le mie difficoltà con tutti. Il cuoco è bravo. Sì, bravissimo. È sempre tutto pulito, è personale, proprio gentile, anche cuoco, grazie. Perché le piace di più? Ma mangiamo pasta con volontà. E la cotoletta. Sì, anche buona, grazie. I nati sono bravi. Sì, bravissime. E anche lei, signora, si trova bene? Sì, benissimo. Anche ucraino. Anch'io sto cercando lavoro e che perciò sono qua. E cosa le piacerebbe fare? Non c'è scelta. Questo che capita, questo prendiamo. Vabbè, prendiamo anche questi lavori che ne vogliono fare italiane. Non potete anche immaginare... Italiani non prezzano queste che hanno. Perché non se ne accorgono che stanno bene? No. Lei ha lasciato una famiglia? Sì, c'è problema con mamma perché è troppo vecchia, anche devo aiutare il fratello perché non sta tanto bene. Manda un po' di soldi. Tutti. Ma non c'è solo il problema di mettere assieme il pranzo con la cena, ancora padre Annoni che spiega gli altri servizi dell'opera. Poi c'è il servizio sociale, l'area sociale che esprime tutti i giorni anche un servizio di accoglienza, di ascolto, di erogazione delle tessere, che provvede anche a, come dicevo prima, appunto, delle esigenze diverse che non siano quelle della prima accoglienza. Certamente i numeri ce li aspettavamo, soprattutto con l'ondata migratoria che ha accompagnato in questi anni non soltanto la realtà italiana, ma più in generale la realtà europea e ancora più in generale la realtà mondiale. Ci aspettavamo questi numeri, certamente. Rispetto alle vostre origini, ecco, la novità è proprio questa, una imponente ondata migratoria. In quest'ultimo anno di crisi è cambiato qualcosa? Ci sono anche italiani, famiglie che magari prima avevano un certo benessere che sono state colpite dalla crisi? Famiglie sì, diciamo che negli ultimi 2-3 anni le famiglie, soprattutto famiglie di provenienza extracomunitaria, si sono presentate, si presentano tutta Europa, San Francesco, a volte anche con dei bambini molto piccoli, persone, famiglie che emigrano oppure famiglie che attraverso il ricongiungimento familiare si ritrovano appunto in Italia e a Milano. Nell'ultimo anno, credo che nel 2008, nel 2009 anche, per la prima volta abbiamo toccato una presenza del 10% di italiane nelle attività di Opera San Francesco, soprattutto uomini non giovani ma con un'età intorno ai 50, 55, 55 anni, spesso soli, con delle situazioni anche di separazione o divorzio, tagliati fuori dai circuiti lavorativi o per prepensionamento, più che altro per mobilità o per cassa integrazione o per licenziamento, e quindi è un fenomeno che si sta presentando di questa fascia di italiani, che anche famiglie di italiani che magari senza frequentare direttamente la mensa però ci chiedono degli aiuti perché il licenziamento di uno dei genitori oppure la mancanza di lavoro dei figli creano delle situazioni di difficoltà, anche se, ripeto, non frequentano direttamente il nostro centro. Un compito non facile è quello dell'accoglienza. Frate Domenico è responsabile dell'organizzazione. Beh sì, io innanzitutto in prima linea ho questa grande esperienza, bella esperienza, lo posso dire con veramente tanta gioia nel cuore, perché sono un po' il punto di riferimento qui in questa struttura di mensa, doce, guardaroba. Queste persone hanno tanti bisogni, ma un bisogno primario è quello dell'ascolto, dove qualcuno li possa ascoltare, li possa sorridere, li possa anche essere a volte pungolo per poter reagire a determinate situazioni. Occorre sensibilità, ma anche polso. Diciamo che è una carità intelligente, perché per gestire un numero di utenza così elevato inevitabilmente sono necessarie delle regole. Queste ci preservano da situazioni ingestibili, no? La regola c'è, vale per tutti, e per cui non c'è distinzione tra etnie, e loro lo sanno. Se loro stanno alle regole trovano una casa. vorrei dire una familiarità, e questo quando lo comprendono poi lo accettano. Ogni giorno, anche qui all'Opera San Francesco, ha il suo tramonto, ma resta alla fine il piacere di non aver perso del tempo. Innanzitutto vado a letto stanchissimo, molto stanco, ma non pesante. Vado a letto perché le energie che ho consumato sono veramente state tante. Ma il cuore è sempre sereno, sempre... anche nella fatica comunque sento che non è Fra Domenico che opera, ma è un grande spirito che opera Fra Domenico. Sono uno strumento, sono braccia, sono mani di qualcun altro più grande.